Capitolo 7 di Mattinate Napoletane. Questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico. Registrato da Davide Lequile. Mattinate Napoletane di Salvatore Di Giacomo. Capitolo 7. Senza vederlo. Siccome in questo mondo chi pensa ai casi suoi e mette le cose a posto è chiamato accorto, così, quando dopo la morte di Selletta, Spazzino, il quale prima aveva fatto il fiaccheraio e prima ancora aveva governato un negoziuccio di commestibili, la vedova Carmela chiuse un suo maschietto all'albergo dei poveri. La bambinella mandò a imparare di cucire da una sartina e si tenne in casa soltanto il marmocchio che le succhiava la vita appeso tutta la santa giornata al petto vizzo. Delle vicine parecchie e furono le più attempate, dissero che aveva fatto bene a provvedere a quel modo alle cose sue, sconsolata e impoverita come Selletta l'aveva lasciata. Dissero le altre, poche, e furono le mammine fresche del vicinato, le quali cominciavano con la prima maternità a raccogliere tutto l'amor loro sui figliuoli, che questi erano il riso della casa e che proprio ci voleva un cuore assai duro per allontanarli e un coraggio, via, un coraggio. Come fate a rimanere tutta sola? Diceva la vedova Nunziata Fusco, una bionda grassetta con in collo un bambino biondo grassotto come lei. Dite voi, piagnucolava Carmela, come avrei potuto fare con tre angioletti attorno? Sono tre bocche sono. E poi Nanninella, voi sapete, torna a sera dalla sarta e la notte a me compagnia, impara l'arte. Oramai è grandicella. Per Peppino, voi dite che è lì, all'albergo, è brutto, non è vero? L'altra diceva, sentite, me ne sarebbe mancato il coraggio. Voi non lo vedete più, Peppino. E lui non vede più voi. E chi chiama se ammala? Come? Allora non sapete niente. Lui si trova come a casa sua e niente gli manca. Ah, è vero, soggiungeva con le lacrime agli occhi. Io non avevo pensato a questo. Ma già, avranno medici e medicine. E se accade che lui si ammali, lontano sia, me l'hanno da far sapere. Vi dico che non lo fanno sapere, sentenziava la Fusco, carezzando il suo marmocchio come per dire a Carmela, questo qui, vedete, me lo tengo io, che sono la mamma, e non uscirà mai di casa sua. La vedova rientrò in casa e corse a baciare così forte il suo piccino che dormiva nella culla da farlo svegliare in un sovrassalto. Il piccino piangeva. Core mio, fece lei, zitto, via, zitto, oggi andiamo a trovare Peppino. Era venuto l'inverno a un tratto, con giornate buie e rigide. La casa di Selletta stringeva il cuore, tutta occupata dall'oscurità. Appena di sotto l'uscio ci si vedeva il lettuccio di contro le pareti, ove gli strappi al parato meschino scoprivano la grigia nudità del muro. L'umido penetrava nelle ossa. Selletta lì dentro ci aveva persa la salute. La vedova imbacuccò alla meglio il piccino e lei si buttò addosso lo sciallo nero che a quello era servito di coperta, nella cuna. Cercava ora la chiave della porta, la trovò nella cenere fredda del braciere, che con quella aveva scavato il giorno prima per riattizzare il fuoco. «Andiamo da Peppino!» ripeteva il marmocchio chiudendo l'uscio. La viuzza, trafficata da piccoli venditori del vicinato in movimento, pareva allegra. Nel lontano, per un vicoletto che vi sbucava, una larga striscia di sole tratteneva i passanti, i quali si fermavano apposta in quel po' di caldo a chiacchierare. «E dove andate?» chiese la vedova una vicina. «Avete visto la buona giornata e andate a spasso?» «Andiamo da Peppino!» disse Carmela mettendo in tasca la chiave. «Peppino chi?» «Peppino mio figlio, che ho messo a scuola, all'albergo dei poveri, quando Selletta è morto. Buon'anima sua!» «È stato lui che me l'ha raccomandato. Diceva, mettilo lì perché impara l'arte e non toglie pane alla casa. E voi andate a trovare? Sono 3 settimane che non lo vedo e questo gli farà piacere. Lasciatemi andare, bella mia. Buongiorno». E tirò via col bambino in collo, trascinando per la mota della viuzza un lembo della gonna lacera. In quel pezzo della via soleggiato, lì dove un gruppetto di femmine si era raccolto a ciarlare, trovò una Ninella che guardava curiosamente con le manine sotto il gambiale, il panchetto d'un venditore di caramelle, il quale si godeva il sole fumando la pipa, gli occhi socchiusi. «Nannina?» fece la vedova. «Come ti trovi qua? Che fai?» La bambina le corse incontro allegramente. Non si lavora oggi, la maestra fa festa. Ce ne ha mandate via tutte, perché lo sposo la conduce in campagna. Andiamo da Peppino, disse la vedova pigliandosela per mano. Faceva un gran freddo, ma il tempo era sereno e la via asciutta. La bambina batteva ogni tanto i piedi a terra per riscaldarsi, afferrata con una mano alla veste della madre, che le copriva il pugno. L'altra mano aveva ficcata nella piega dello scialletto, alla vita. A volte, chinando la testa, passava il gomito sulla fronte per trarne indietro una banda di capelli che le veniva sugli occhi. Non voleva mettere fuori la mano dallo scialletto. «È molto lontano», chiese a un tratto, quando furono nella via larga di Foria. «Lì, in fondo», disse la vedova. «Vedi quegli alberi? Lì, guarda, di rispetto a noi. È lì, com'è lontano», mormorò la bambina. Allo sbocco di via del Duomo, sul marciapiede, incontrarono la rivendugliola che teneva bottega accosto alla loro. La vedova non la vide. In quel momento rincappucciava il bambino. La vide Naninella. E come la rivendugliola le sorrideva, le gridò passando. «Non andiamo da Peppino, torniamo più tardi». «Chi è?» fece la vedova voltandosi. «Marianna», disse la bambina. «È andata a comprare qualcosa». «Cammina», disse la vedova. Arrivarono stanche. La bambina non ne poteva più. Cercarono il sole, presso alla grande scala dell'albergo, ove quello batteva tutto sulla facciata. Sui gradini erano seduti tre vecchietti, pezzenti di San Gennaro, in chiacchiere con una venditrice di melo. La vedova s'accostò guardando nella cesta. «Me ne comprate, bella figlia?» le fece la venditrice. «Guardate, me ne do tre di quelle grosse per due soldi, guardate!» «Dite», fece la vedova. «Le posso portare su a mio figlio? Lo permettono? Sapete niente?» «Come no, vi pare? Sono mele, non sono cannoni. Pigliatele!» «Dove le volete mettere?» «Qui», disse la bambina, aprendo il grembiale. «Mettetele qui, le porto io!» La vedova pagò i due soldi e si mise a salire la scala dell'albergo, con dietro la bambina, tutta felice delle mele. Sul largo pianerottolo non sapeva più andare. Le porte erano molte, la scala continuava. «E qui?» chiese la bambina. «Ancora più su, non so. Aspettiamo qualcuno che ce lo dica». Sentivano zufolare su per la scala. Una voce d'uomo si avvicinava canticchiando. «M'hanno detto che Beppe va soldato e chi van vista pianger di nascosto». Spuntò subitamente un giovanotto, con le mani in saccoccia e uno scartafaccio sotto l'ascella. Quando fu sul pianerottolo, dette un'occhiata alla donna e alla bambina e tirò innanzi, continuando. «Far piangere sì begli gli occhi è gran peccato». «Signore? Signore?» fece la vedova. «Che c'è?» chiese lui mettendo il piede sul primo gradino dell'altra tesa e voltandosi. «Dove si va per vedere? Per parlare con un bambino? Io ho qui mio figlio. Vi levate presto voi la mattina? Questa non è ora di parlatorio. Ma via, può accadere che vi facciano vedere il bambino. Andate su, dal segretario». «E dov'è?» chiese timidamente la vedova. «Su, al secondo piano, prima porta a destra, ultima camera». Parlando saliva. A un tratto la vedova non lo vide più, ma sentì la sua voce dall'alto, mentre saliva anche lei. «Ultima camera, avete capito?» «Sì, signore», gridò la vedova. «Grazie, signore. Dio ve lo renda». Il segretario era un uomo assai maturo. Molto per bene, con occhiali d'oro, con un bell'anello al dito indice. Sedeva presso la sua scrivania, firmando certe carte che un impiegato gli metteva innanzi una dopo l'altra, asciugando le firme sopra un gran foglio di carta rossa. Nella camera c'era la stufa, che vi spandeva un tepore dolcissimo. «Chi siete? Che volete?» fece il vecchio levando gli occhi delle sue carte ed esaminando la vedova e la bambinella. La vedova non sapeva che dire. «Sono Carmela Selletta, eccellenza. Volevo vedere, se è possibile, io qui mio figlio, a 7 anni, Giuseppe Selletta». «Ma Dio mio, non dovete venire qui», fece il vecchio, la penna levata. «Questo non è un parlatorio. Dio mio, ah, santa pazienza». «Così m'hanno detto, eccellenza», mormorò la vedova mortificata. «Ho Ho incontrato per le scale un giovane e mi ha insegnato la porta. Ma non è qui, non è qui, insisteva il vecchietto. E poi, bella mia, non è ora questa di parlatorio. La vedova rimase muta. Come avete detto che si chiama vostro figlio? Soggiunse dopo un momento il vecchietto, dal quale ora la voce si raddolciva. Peppino, Giuseppe Selletta. Ma zia, fatemi il piacere. Guardate un po' dentro, in archivio, se c'è la rissa, e parlatene a lui di questo ragazzo. Anzi, fatelo venire qui, che sarà meglio. Come si chiama? Chiese l'impiegato alla vedova. Giuseppe Selletta. Mazzia sparì dietro una portiera. Il vecchietto raggiustò sul naso gli occhiali, soffiò nelle mani e mise sulla scrivania una tabacchiera d'argento. Nannina aveva riguadagnato coraggio e s'accostava alla scrivania, guardandovi curiosamente il gran calamaio dorato, sul quale due pupazzetti reggevano a fatica una colonnina per metterci entro le penne. Lo sguardo della piccina incantava. Passava dal calamaio a un fermacarte di cristallo, sotto il quale si vedeva la chiesa di San Pietro, col cupolone, la piazza e la gente in cammino, tutto colorato. «Sedete», fece a un tratto il vecchietto, dopo una rumorosa soffiata di naso. «Pigliate, lì, una sedia, quella nell'angolo. Brava, sedete pure». Aprì la tabacchiera, tirò su una gran presa e allungò le braccia sulla scrivania. «Ah! Buon Dio di pace e d'amore!» sospirò. Poi voltandosi. «Che cosa avete in braccio?» dimandò, aguzzando lo sguardo di sotto gli occhiali. La vedova alzò un lembo dello sciallo, scoprendo il piccino che dormiva tranquillamente con una mano sul petto. «Un piccino!» fece il vecchio sorridendo. «Carino proprio! Figlio vostro!» «Sì, signore!» Nannella si era avvicinata a guardare il fratellino, togliendosi alla contemplazione del calamaio. Stese la mano per accorizzarlo. «Sss!» fece il vecchio sottovoce. «Lascialo stare, tu. Si sveglierà. Ricopritelo con lo sciallo. Poverino!» Appariva Mazzia sotto la portiera, impassibile. «Dunque?» fece il vecchietto. «Se il signor segretario», disse Mazzia, «vuol favorire un momento». «Che c'è?» Si levò poggiando le mani sui braccioli della sua seggiola, cercando in saccoccia il moccichino di seta rossa. Ripeteva camminando. «Che c'è, Mazzia?» Quando il segretario gli fu presso, Mazzia lasciò ricadere la portiera e questa li nascose. «Ora viene Peppino», disse la vedova Nanninella. «Ora viene?» ripeté la piccina sottovoce. La vedova col capo fece cenno di sì. I due parlottavano ancora dietro la portiera, ma non si capiva nulla di quel che dicessero. A un tratto riapparve il vecchietto. Pareva molto turbato e veniva innanzi lentamente, con lo sguardo sulla vedova. Si fermò presso alla scrivania, aggiustò un quaderno sotto un libro e tossì due o tre volte. «Sentite, bella mia!» La vedova si era levata, traendo indietro la seggiola. «Sentite, non si può parlare a quest'ora coi ragazzi. Io ve l'avevo detto. Siete venuta troppo presto. E gli è che a quest'ora il ragazzo...» Si interruppe. La vedova lo guardava. «Mazzia», si volse lui bruscamente all'impiegato, «aiutatemi a dire». «Il ragazzo è alla lezione», disse Mazzia secco secco, e si rimise a guardare di fuori, per la vetrata. «Ecco», disse il vecchietto risollevato, «è alla lezione. Qui si è molto severi». La vedova ebbe un moto di dispiacere, strinse meglio sul petto il bambino e rimase lì in piedi, aspettando ancora, sperando ancora. «È proprio impossibile», mormorò timidamente. «Eh», fece il vecchio, «sicuro, impossibile. Voi siete sua madre, non è vero?» «Sì, signore, sua madre». «Impossibile, bella mia», borbottò. «Come si fa? Dovreste tornare. Tornate, tornate lunedì, che c'è udienza. Non è vero, Mazzia?» Mazzia guardava di fuori, non udì e non rispose. La vedova arrossiva, cacciò lentamente la mano nel grembiale di Nannina. «Perdonatemi», balbettò. «Io gli avevo portato... gli volevo lasciare queste mele. Perdonatemi». «Date qua», disse il vecchio. La bambina già ne aveva posate due sulla scrivania, accanto al bel calamaio. Lui prese la terza e la mise presso alle altre. «Perdonatemi l'ardire», mormorava la vedova. «Via», fece lui dolcemente. «Torno lunedì?» «Sì, sì, lunedì. Più tardi. Non venite da me. Chiedete del direttore. Lui saprà dirvi». La vedova gli prese la mano che gli stendeva a carezzare la bambina e fece per baciargliela. «Oh!» esclamò lui come spaventato. «Lasciate stare, bella mia. Addio, addio, buona giornata». Erano uscite. Il vecchietto rimase in piedi presso la porta. Ascoltava il rumore delle ciabatte della vedova su per la scala, la vocetta della bambina che interrogava. Mazzia si ricollocò di faccia a lui e gli mise innanzi le carte. «Piano», disse il vecchietto, «non c'è fretta». Vi fu un silenzio. Il segretario scoteva malinconicamente la testa. «Glielo dirà il direttore lunedì», mormorò. «Io no, di certo. Non voglio ricominciare la giornata a questo modo». Asciugati gli occhiali, se li piantò sul naso, tossì, soffiò nelle mani e riprese la penna. «Ah, signore Dio», sospirò. «Buon Dio di pace e d'amore. Date qua, mazzia». Fine del capitolo 7, registrato da Davide L'Aquila.